Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Martedì 23 febbraio, buongiorno di nuovo a tutte e tutti tra la città e il carcere, siete sempre su Liberi Dentro, in onda su Radio Città Cugico, su Teletricolore, e saluto i miei ospiti, sempre Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, salam aleikum, benvenuti a tutti e a tutte. E Maria Chiara Gallo da Reggio Emilia, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Oggi apro sempre con voi con la cronaca bianca, con una notizia veramente molto carina, molto sfiziosa, perché ci giunge da Castelfranco Emilia, quindi siamo sempre in Emilia Romagna, in provincia di Modena, dove la notizia titola «Anche i detenuti della casa lavoro produrranno tortellini». Lo leggo da Modena Today, perché le sfogline si recheranno nella struttura carceraria per insegnare ai detenuti i segreti del tortellino modenese, bolognese, insomma, non si sa ben l'origine ancora, ai detenuti. È stato sottoscritto infatti un accordo con il Comune, la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia e l'Associazione Maestre Sfoglieni di Castelfranco, grazie al quale nella casa di lavoro sarà allestito uno spazio per la produzione e la vendita del tortellino. Quindi sarà finalmente possibile acquistare il tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, che sarà venduto al pubblico direttamente dallo spazio esterno alla storica struttura del forte urbano che ospita la casa di lavoro. Tutto questo grazie a un progetto del Comune di Castelfranco finanziato dalla Regione Emilia-Romagna sul tema della promozione della sicurezza. Presenti a questa firma il sindaco di Castelfranco, la direttrice dell'istituto, la dottoressa Maria Martone, e il presidente dell'associazione Maestre Sfogline. Una cosa veramente carina che ha dichiarato il sindaco è, dice, non posso che esprimere la mia profonda soddisfazione perché finalmente vedo concretizzarsi con questo nuovo progetto la possibilità di far forti i valori della comunità, compresa la solidarietà. È una bella cosa questa che dice, eh? L'obiettivo è quello di dare concretamente un sostegno in più a tante persone che stanno completando il loro percorso di reinserimento nella società dopo aver pagato per errori commessi in passato e aver dimostrato nei fatti di essere pronte ad affrontare una nuova vita. E poi dice una cosa molto bella, lui definisce il carcere aperto, una definizione che amo, che ha come base il senso e il significato di relazione interna ed esterna della struttura carceraria con il territorio. E questo è anche il nostro ponte di Eduradio tra la città e il carcere. Ma l'apertura adesso si vede, secondo esatto, me si vede, Caterina, anche sul fatto che l'apertura è la quantità di nazionalità che si trovano in carcere. Io sono qua per fare le informazioni internazionali dall'altra parte della sponda del Mediterraneo, ma non dimentichiamoci che quelle sponde si trovano nel carcere per dei motivi, certo, non li vorremmo che fossero tutti liberi, che nessuno avesse sbagliato nella vita, però accade che si trovano persone di diverso tipo, e questo mi fa pensare una lettera bellissima che ho ricevuto, posso citare qua tranquillamente, perché una persona ora libera, una persona italiana, la prima carcerazione, e mi scrive che mi hanno chiuso, quando mi hanno chiuso in cella avevo molta paura e temevo la persona che condivideva la mia cella. I primi due giorni non ho mangiato e non ho dormito, ma il mio compagno di cella, e poi mi spiega che uno di cui, che se l'avessi incontrato per strada avrebbe forse avuto paura, si sarebbe girato dall'altra parte, dice, mi ha aiutato in ogni modo, parlandomi, aiutandomi a muovermi in quegli spazi angusti, mi ha fatto parlare, si sedeva di fronte a me, e poi ogni volta che mangiavamo iniziava con una preghiera di ringraziamento. Io da bravo cattolico non sono mai stato capace di rivolgere il pensiero per ringraziare del cibo ricevuto. E poi ancora un'altra persona dice, l'hanno cambiato di cella, dice, anche qui ho avuto un angelo che mi ha aiutato, una persona che mi parlava, che si svegliava quando nel cuore della notte ero seduto su uno sgabello con la testa tra le mani, cercando di capire cosa mi era successo e perché ero dentro. Si svegliava per me. E ancora una terza persona dice, un arabo. L'arabo che ci portava da mangiare in cella si fermava ogni giorno 30 minuti per parlarmi e per infondermi tranquillità. Non solo, quando è stato scarcerato, si è presentato da lui con una croce Voi sapete che i musulmani la croce fa problema, gli ha regalato questa crocetta e per lui è una, un ricordo molto prezioso. Quindi in carcere succede anche questo, e questo insegna a tutta la città. La allora, solidarietà, sì. La solidarietà. Allora io vorrei dedicare a questa persona libera adesso, se ci ascolta, e anche alle due persone, le tre persone, se ci ascoltano, che so che una è già uscito, forse due, se ci ascoltano, la prossima canzone dal Marocco, che è Nabila Mahan, Addunia, il mondo. E rieccoci sulle note di questa canzone, sempre dalla cultura marocchina. E continuiamo con te, Ignazio, con il Galateo arabo, sulla parola, virtù, del perdono. Cosa ci racconti oggi? Il secondo capitolo è un perdono che non lasci traccia di rancore. Dice il testo arabo, «Inna l'afwa wa tasamuha, kulukani karimani tahtajuhuma an-nafs al-bashariya». يتخلص من كل شوائب التي قد تتعلق في القلب من أثر الأذى. Cioè, dice che quando tu hai subito un torto nella tua vita, questo torto è stato un torto per te, uno schiaffo, un imbroglio, una cosa, però c'è una cicatrice più profonda che quella dell'anima, quella del cuore, أثر الأذى, cioè la cosa che ti fa male. Allora dice che il perdono, quando è dato di cuore, a questa forza di medicinale, una specie di chirurgia estetica, ma potentissima, che elimina le tracce del dolore per il dolore subito. È una cosa molto bella da praticare. Io non so, Caterina e Maria Chiara, se voi lo praticate. Dicono certe volte, scusate le cose di genere, che le donne fanno fatica a perdonare, forse più degli uomini, non so. Ma vi lascio la parola. No, è bello pensare, diceva la Jürsenar, la scrittrice, che il tempo è un grande scultore. E alla fine mi piace pensare a questa frase, almeno per la mia esperienza personale è stato così. E anche, diciamo, i piccoli torti subiti sono poi scivolati via con il tempo, come l'acqua, no? che scorre sulle rocce. Ed è veramente così, perché se ci penso ora non mi fanno più male. Per cui... E quest'acqua fresca è il perdono, ecco, quest'acqua di cui parli può essere il perdono. Sì, assolutamente. E io aggiungo che secondo me è meglio subirlo che praticarlo, cioè questo è una grande... Assolutamente. Quindi anche quando si subisce qualcosa poi scivola di dosso, perché darlo agli altri può essere un grande dolore. Però, Maria Chiara, siamo con te per parlare di forza liberante del canto. E io ti vorrei chiedere un consiglio proprio per imparare a cantare per chi ci ascolta tra la città e il carcere in questo momento, anche nei momenti di ansia, di paura, ora che siamo ancora nella pandemia che ci fa un po' soffrire ancora un po'. No? Assolutamente, anche perché penso di poter parlare anche a nome di altri miei amici e colleghi, capita anche a noi. Io ho passato un mese, a maggio dell'anno scorso, in cui mi sentivo veramente bloccata, anche fisicamente. Per cui ho passato un mese, tre settimane, in cui facevo molta fatica a cantare. Praticamente non mi usciva più la voce e ho dovuto trovare delle strategie per poter lavorare un pezzettino alla volta, giorno per giorno, chiedendo anche un consiglio a un amico fisioterapista, dunque vi riporto un po' la mia esperienza. Sembrerà banale, ma bisogna concentrarsi sul respiro. Anche solo sdraiandosi a terra o sul proprio letto, è quello veramente che ho fatto io, cercare di concentrarsi sul respiro, che sia regolare, che sia lungo, magari sentendo anche sotto le nostre costole come sta il diaframma, che è il muscolo della respirazione, no? Che sta sotto ai polmoni. Può sembrare una banalità, ma è assolutamente funzionale. Ed è quello che ho fatto io. Piano piano si è sbloccata anche la mia respirazione ed è tornata la mia voglia di cantare, sono sparite le ansie. Per cui se si vuole provare a cantare anche nelle case circondariali è assolutamente fattibile. Bisogna cercare di trovare uno spazio di concentrazione, no? E, di provare dalle cose più facili, dalle cose che conosciamo già, da canzoni o brani di musica pop, classica, rock, quello che ci piace, in cui ci sentiamo magari più sicuri, e anche senza paura, senza il timore del giudizio degli altri, che è quello che spesso ci condiziona, no? Quante volte l'ho vissuto anche con i colleghi che mi ascoltavano o con la gente che sente per radio o anche appunto con gli streaming in lockdown, o col timore che le persone ti riguardino su YouTube e pensino: ah, questa canta male, appunto le mancava il fiato. No, bisogna cercare di cantare per se stessi anche. Questa è una grande verità, perché se sono soddisfatta io di quello che faccio, anche nel mio piccolo, del mio contributo, di quello che faccio per me, saranno soddisfatti anche gli altri. È abbastanza una certezza per me. Grazie Maria Chiara, e ci rivediamo domani. E ora un brano lo lancio io, siccome abbiamo parlato di cucina, lancio Fabrizio De André, A Cim. A domani. Tita de Chanchelen de Gudumatin Calu Jalan Pentera El altro in ma Tita mie ospeggio denti anin O se sa mia ospeggio da rusa Ti metti o brugo rete no in ten cantum E se da capas gujan cujina astria Jeu de conta e page que gesum Acima les apina les acujia Se seré Carascuia, carne tenia no fate negra, no turnatia. Belo e gestra punta de tutto bum. Prima de patesalan tu prebu giun. Agujo in drito in punta de pé da surviazio fito di aponzi c'è aia de luna veja de ciel de neja co cego perda testa laseu Sente Udo de ma Miscio de persa leggia Cosa truffa Cosa truttaghe o se Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Siamo con un nuovo ospite oggi, Mauro Palma.

che dica anche se soddisfatto di me, in fondo lo sono mai stato. Soddisfatto di che, ma va bene anche se qualche volta mi sono sbagliato. Siamo noi però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa. Chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che, che cosa sei. Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Abbiamo appena ascoltato l'intervista a Mauro Palma, garante nazionale delle persone detenute, che riascolteremo anche nelle prossime puntate. E adesso il saluto è sempre a domani alle 9 su Radio Città Fujiko e alle 10.30 su Teletricolore, ma vi ricordiamo di scriverci a liberidentro.duradio@gmail.com oppure al nostro indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, e il laboratorio di questo pomeriggio alle ore 17 su Teletricolore, sempre Altro diritto, istruzioni per l'uso. Ci rivediamo domani, a presto.